non muore, si rivede, chi si rivede muore. Ma chi sono io per non giudicare? Giudica il diavolo nel deserto, offrendoti da bere. Ballare, ho scelto di morire, schiattare in ascensore, abdicare alle mosche per non giudicare, pagare e sorridere, sorridere e pagare. Pagare con la coscienza nuda del santo bevitore.